rubrica di informazione giuridica e attualità a cura dell'avvocato Marco Mampieri. A proposito di cena, ma quando la paghi una cena? Scusami tanto, eh. Buongiorno. No. Buongiorno. Dove sei? Non mi senti? Ecco, io adesso ti sento e mi sento soprattutto. Allora, buongiorno al nostro avvocato Marco Mampieri. Quest'oggi parleremo della compravendita immobiliare. Lui ha acquistato una casa, sa come fare. Devi pagare una cena, insomma. Ecco qua, sono anni che gestiamo questo aspetto anche dal punto di vista, soprattutto dal punto di vista professionale e poi anche, quando capita, anche a livello personale. Allora, la casa è sicuramente il centro della nostra vita, poi per noi italiani insomma è l'investimento di una vita nel vero senso della parola, anche perché gira tutto intorno alla casa, no? Beh. Vedi, se devi fare un mutuo, paghi il mutuo per comprarti la casa non è tua, ma tu paghi lo stesso, comunque fino alla fine paghiamo l'affitto l'affitto la locazione alla banca in attesa che riscattiamo la casa da loro. Non è vero, questa è una semplificazione che abbiamo fatto, ma effetti, diciamo che sotto alcuni punti di vista, no, come quelli che dicono: ma perché io dovrei pagare le tasse sulla casa se la casa non è totalmente mia? Fino a che non sa, cioè io dovrei pagare le tasse per quello che ho pagato fino adesso. Se ho pagato solo la camera, quando arriverò a tutto l'immobile, allora dovrò pagare l'intera somma, no? Purtroppo il regime tributario non ragiona come il privato cittadino. Infatti, no, perché le leggi sono fatte a favore di qualcun altro, non certo dei cittadini. Allora, se volete fare le vostre domande, 06 953 5787, lasciate la vostra domanda in segreteria e poi noi la gireremo naturalmente all'avvocato, anzi io, e oppure potete scrivere un SMS o WhatsApp al 333 222 7992, per parlare appunto della compravendita immobiliare, le regole per l'acquisto sicuro. Allora, intanto facciamo un'introduzione, Marco, ci spieghi un attimino di cosa stiamo parlando e poi dopo, quando rientreremo dopo la pubblicità, ti farò alcune domande, ok? Perfetto, allora innanzitutto cominciamo a fotografare anche l'aspetto economico che sottende la compravendita immobiliare, perché il mercato immobiliare, come abbiamo visto, ha risentito della crisi, tant'è vero che nella relazione proposta dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, fonte Agenzia delle Entrate e Associazione Bancaria Italiana, è stato tracciato la pubblicazione del 22 maggio, quindi recentissima, del 2018, è tracciato il ciclo e l'andamento delle compravendite immobiliari dal 2006 fino ad oggi, riscontrando quindi tutto quello che è stato il periodo che ha investito l'Italia nella crisi economica, e quindi l'andamento delle compravendite che hanno registrato un severo andamento all'indietro durante il 2013, perché fatta 100 la base di conteggio, nel 2006 questo indice era pari a 169, nel 2013 era sceso a quota 100, a quota 78, quindi sotto il livello iniziale, per riprendere quota 108 nel 2017, quindi riprendere l'andamento economico, e ci descrive appunto quella che è stata la situazione, lo scenario microeconomico e macroeconomico che abbiamo attraversato durante tutti questi anni della crisi, e quindi come questo ha inciso poi su quello che dicevi tu, cioè il centro della nostra vita quotidiana, che solitamente per gli italiani è rappresentato dalla casa, con quello che ne ha con le conseguenze anche in ambito di prestiti, di mutui, di investimenti e tutto quello che era l'indotto legato proprio alla costruzione del mercato immobiliare. Quindi questo dato per fotografare appunto quella che è la situazione nella quale ci troviamo, con questo trend in crescita, in cui nel 2016 si è registrato un più 18,6% nel numero di abitazioni acquistate, quindi rialzando un pochettino quello che era stato un trend negativo negli anni precedenti, soprattutto 2012 e 2013, dove si è registrato il periodo maggiore della crisi. Non lo scopriamo noi, ma questi sono i dati che ci vengono forniti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, quindi una fonte attendibile, che ha analizzato da un punto di vista economico quello che è stato il ciclo delle compravendite in questi anni. Quindi nel 2006 si era partita su una base 100, siamo arrivati a 78 nel 2012-2013, stiamo ricominciando a crescere. Nel corso del 2017 si è avuto, rispetto al più 18,6% del 2016, un 4,9%, quindi è un trend che sta continuando a riprendere in aumento, frutto anche delle manovre economiche fatte dalla Banca Centrale Europea, che ha immesso liquidità nel mercato e quindi ha consentito l'abbassamento dei tassi e quindi in qualche modo ha rimesso in moto la possibilità per le banche di erogare credito alle persone. Ovviamente la stretta che c'è stata durante gli anni di crisi ha comunque prodotto degli effetti negativi congiunturali, e questo è il riflesso che stiamo vivendo anche oggi, anche se il trend è nuovamente in crescita, e quindi speriamo che possa rappresentare un segnale positivo per tutta l'economia italiana e, come dicevo, aiutata appunto dall'immissione di liquidità che la Banca Centrale Europea nel periodo della crisi più stringente, quindi 2012-2013, ha consentito di attenuare con questo effetto che stiamo registrando in questi anni, e quindi questo rapporto appunto fotografa la situazione di questi giorni. Ma la domanda per avere un mutuo in banca in questo periodo è la stessa che ti fanno quando hai 20 anni e ti chiedono 10 di esperienza lavorativa? Esatto, beh, poi le banche ovviamente fanno le loro verifiche, perché ricordiamo che la crisi che è originata dal Lehman Brothers del 2008 è stata originata proprio dal crack bancario per prestiti erogati con facilità e che non sono stati restituiti, e quindi con quegli effetti dei titoli cosiddetti tossici che hanno poi coinvolto tutto il mercato a livello globale, che è arrivato. Quindi le banche sono molto prudenti, forse più anche troppo in questi tempi, per poter erogare un mutuo per la compravendita di un immobile, però i dati, ecco, ci dicono che questo trend sta aumentando nuovamente, non ai livelli pre-crisi sicuramente, però sta aumentando. Quindi se prima venivano concessi mutui al 100% per l'acquisto di una casa, oggi comunque la legge già lo prevede, deve essere massimo l'80%, lo prevedeva anche prima, ma alcune banche si sono spinte anche in quella bolla speculativa ad erogare il 100%, e poi sappiamo com'è finita con la crisi del risparmio, che è quello che poi il presidente Mattarella ha cercato di tutelare. Ne abbiamo parlato sommariamente la scorsa settimana, facendo gli auguri al nuovo presidente del Consiglio, quando c'è stata la crisi che aveva portato a non conferire l'incarico, a non proseguire nell'incarico l'attuale presidente del Consiglio Conte, perché il risparmio è comunque deve essere comunque tutelato, e quello che è successo con le banche ovviamente dimostra che a volte il risparmio, ma anche l'immissione di liquidità, non ha funzionato correttamente, è il motivo per il quale la bolla speculativa che ha investito il mondo e soprattutto l'Europa a partire dal 2009-2010 e l'Italia in quegli anni 2011-2012 a seguire ha causato questa fortissima crisi economica, di cui ancora vediamo gli effetti e speriamo nella ripresa, sapendo appunto che si sta lavorando per cercare di ristabilire un equilibrio economico-finanziario. Ma la stessa cosa succede anche per quanto riguarda le case che non sono state poi liquidate dall'acquirente, nel senso, ho chiesto un mutuo in quel periodo, o prima forse anche, la banca cosa fa? Fa sua la casa se tu non la paghi, no? Ti viene sequestrata, giusto? Ti viene pignorata, viene, no? Pignorata. Con tutti questi pignoramenti poi la banca si trova una marea di case. No, perché bisogna... È una domanda non ho mai capito. Hai fatto bene a fare questa domanda, perché la banca non diventa proprietaria della casa. Ah. La banca sottopone l'immobile a procedura esecutiva immobiliare, quindi a pignoramento, e la casa viene di solito messa nella procedura esecutiva perché ci potrebbero essere altri creditori presenti insieme alla banca, e quindi l'immobile, il ricavato della vendita dell'immobile è il frutto, diciamo, viene utilizzato per ripianare i debiti che il proprietario in quel caso ha. Dunque l'immobile viene messa all'asta, sì, se non sbaglio, sì, no? Viene messa nella procedura concorsuale, viene nelle procedure immobiliari, scusate, e quindi da quel punto di vista viene fatta la liquidazione. Esiste, è stata trattata qualche anno fa, 2013-2014, la possibilità per i nuovi mutui di poter invece conferire direttamente in caso di mancato pagamento di 20 rate consecutive definitive dell'immobile passare alla banca. Questo è ancora un effetto che ancora non si produce solitamente fino ad oggi. Chi è debitore nei confronti, è debitore nei confronti della banca per non aver corrisposto le rate di mutuo, la banca attraverso le azioni esecutive, decreto ingiuntivo prima, pignoramento e precetto e pignoramento, esegue un pignoramento immobiliare e mette l'immobile all'asta. Allora fermiamoci qua, poi rientriamo perché c'è la pubblicità proprio su questo, perché io spesso sento dire, no? Ma la banca non ti dà più i soldi perché ha tante di quelle case pignorate che non sa più che farne, allora per quello non ti dà più il mutuo. Dunque non è vero, le case non sono della banca, ma c'è tutto questo procedimento, ne parliamo dopo e parleremo anche delle aste poi, perché anche sulle aste mi devi spiegare qualcosa di ben preciso. Assolutamente. Perché ho delle domande specifiche da farti. Bene, allora rientriamo dopo la pubblicità. Oggi stiamo parlando appunto della compravendita immobiliare, regole per l'acquisto sicuro. Avevamo già dato un'infarinatura, insomma, nel primo intervento, e stavamo parlando delle aste, proprio per quanto riguarda le aste dopo l'iter, no? Allora uno chiede il mutuo alla banca per acquistare una casa, giusto, no? Sì. Lì che stavamo spiegando. Stavamo parlando, sì. Il cliente non può pagare. Dopo quante cose adesso, quante rate sono? No, dipende, questo dipende dalla banca, perché nella procedura è una politica di istituto. Istituto, a seconda della politica che adotta il singolo istituto, può procedere alla richiesta e quindi al recupero coattivo delle somme dovute, quindi instaurando una procedura esecutiva, iniziando quindi da la richiesta di ingiunzione di pagamento, precetto, e poi il pignoramento, che solitamente è immobiliare, perché per concedere il mutuo la banca iscrive un'ipoteca sull'immobile e quindi è un creditore privilegiato. La domanda che mi facevi tu rispetto sul perché le banche hanno tutti questi immobili e la difficoltà di vendere, innanzitutto va detto che la procedura esecutiva, quindi in questo caso immobiliare, che viene seguita serve per tutelare la cosiddetta par condicio creditorum, cioè viene instaurata una procedura esecutiva perché potrebbe esserci non soltanto la banca come creditore della persona, del soggetto che ha un debito, quindi ci potrebbero essere più soggetti, e il motivo per il quale viene più soggetti riguardanti quell'immobile, non solo l'immobile ma anche, per esempio, se io persona fisica contraggo più debiti nei confronti di più soggetti e ho anche un mutuo ipotecario con la banca e non pago le rate, la banca, per esempio, o un altro creditore può iniziare la procedura e la liquidazione attraverso la vendita giudiziale, come dicevi tu, l'asta, che è una delle modalità di vendita perché l'asta è la vendita cosiddetta all'incanto. Incanto, no? Sì. Quindi con le varie offerte a rialzo. Come si incantano quelli che vanno? No, non è una domanda stupida. Cioè, come funziona quest'asta? Beh, l'asta è il termine del processo esecutivo, cioè il momento in cui, dopo che ci sono state la verifica sul valore, sull'immobile, sulla vendibilità dell'immobile, quindi viene nominato l'esperto stimatore, il custode da parte del giudice, viene solitamente eseguita l'ordinanza per l'allontanamento delle persone che occupano l'immobile, quindi l'immobile possibilmente deve essere libero. Queste sono tutte le riforme che hanno interessato le procedure esecutive immobiliari, le procedure esecutive, e che sono oggetto della recente normativa, debbono quindi consentire al creditore e quindi alla procedura di poter vendere l'immobile in tempo molto veloce, cioè potenzialmente veloce, perché prima le procedure invece duravano molti anni, ed è il motivo per il quale spesso tanti immobili rimangono invenduti, no? Nel passato. Quindi l'intento del legislatore con la modifica è stato quello di accelerare questo percorso per poter far sì che attraverso la vendita del bene si possano pagare i creditori, in questo caso la banca. E quindi la domanda che mi facevi tu all'inizio, dice, però perché esistono tante immobili? Perché purtroppo a volte gli immobili non vengono venduti, quindi le banche erogano il credito alle persone, in questo caso parliamo per esempio di persone fisiche o anche e però poi non vengono ristorate dal pagamento delle rate, e quindi debbono per forza incardinare questa procedura esecutiva, che può anche concludersi senza la vendita dell'immobile o con una vendita molto più bassa rispetto al valore, appunto, che avevano, e quindi quello costituisce una perdita per il sistema bancario da questo punto di vista. Perciò vengono vendute a meno valore, perché essere, certo, perché esistono, da quello che mi risulta, insomma, fanno l'asta, non va a buon fine, esatto, rimane lì, e esistono, c'è gente, quattro tentativi che, ecco, possono, appunto, essere speriti con dei ribassi significativi, quindi ogni quella volta... persona che aspetta la quarta di asta, come fa a sapere che va a finire la quarta? Solitamente chi acquista l'asta, chi acquista l'incanto, insomma, sa che ci sono diversi momenti, quindi c'è la prima, dalla prima all'ultima ci può essere un sostanziale ribasso, quindi lì come dico sempre anche alle persone che si rivolgono al mio studio professionale, dipende sempre dall'appetibilità dell'immobile, quindi l'immobile potrebbe essere venduto al primo giro perché è particolarmente di interesse, come invece magari al quarto, e quindi lì fare per alcuni addirittura la speculazione immobiliare. Poi entriamo nel dettaglio come inizia una contrattazione immobiliare, cos'è. Noi siamo andati alla fase finale. Alla fase finale, perché praticamente non riesco a capire, o perlomeno o faccio finta di non capire, o forse non capisco perché sono ignorante. Allora, da ignorante vorrei imparare una cosa. Se io mando all'asta un in questo caso stiamo parlando dell'immobile, no? Qual è la persona che può acquistare all'asta questo immobile? Uno che c'ha soldi. Sicuramente può non essere. Non credo che si possa fare un altro mutuo sull'asta, no? No, allora, innanzitutto non può ricomprare l'immobile cioè il debitore e le persone che adesso vicine, insomma, quindi che sono legati da rapporti di parentela entro il primo o secondo grado, quindi per evitare che ci sia che si possa ricomprare redistribuzione del bene, esatto, e quindi anche a un prezzo inferiore rispetto a quello per il quale era stato contratto il mutuo. Questo è quello che la norma tende a disciplinare. Dopodiché chiaramente i soggetti che possono essere interessati al bene possono essere potenzialmente tutti, quindi imprenditori, altre persone fisiche che vogliono acquistare quel bene. No, la domanda può essere, esatto, e può essere richiesta per l'acquisto del anche nella procedura esecutiva l'immobile può essere rifinanziato attraverso un nuovo mutuo. Il nuovo acquirente che vuole partecipare alla compravendita può farlo tramite la banca, può dunque farlo tramite un'altra banca che acquista, cioè io che acquisto per esempio la casa di Tizio, posso chiedere alla mia banca, un istituto di credito, di finanziare quell'acquisto se io ho le garanzie per poter procedere all'acquisto attraverso la procedura esecutiva. Questo in passato ha creato non pochi problemi, tant'è vero che anche il legislatore è dovuto intervenire per consentire una facilitazione per le banche per poter a erogare dei mutui proprio a soggetti interessati ad acquistare l'immobile all'asta, perché in passato c'era qualche problema rispetto al fatto che non ci fosse sempre l'iscrizione ipotecaria e quindi la garanzia per la banca, e spesso quindi nella pratica si potevano creare dei contrasti. Oggi questo è più facile da ottenere, però ovviamente chi acquista, quindi chi intende acquistare l'immobile attraverso questa procedura, che comunque è un acquisto che poi si configura come un nuovo acquisto a titolo è originario, perché non è da una compravendita che deriva questa alienazione, ma da una procedura esecutiva, deve avere lui le caratteristiche per poter prendere un mutuo. Dunque all'asta ci ritroviamo ad acquistare la casa come se fosse la prima casa, né più né meno, sì. E allora come inizia questa contrattazione immobiliare? La contrattazione immobiliare tra soggetti privati, quindi che possono essere persone fisiche o imprenditori, avviene attraverso la proposta di acquisto immobiliare. Un piccolo consiglio che do ai radioascoltatori è quello di verificare bene, e qualora sia che ci si trovi nella parte del venditore, nella parte dell'acquirente, di verificare quelle che sono gli step per poter vendere, perché a volte uno pensa di poter avere di avere un immobile e di poterlo vendere tranquillamente, no? Dice, sai, ce l'ho perché mi proviene dai miei genitori e quindi oggi mi rappresenta un peso e magari lo voglio mettere in vendita. Meglio affidarsi a dei mediatori? Ci si può affidare dei mediatori che debbono essere regolarmente iscritti all'albo presso la Camera di Commercio, tenuto regolarmente, perché altrimenti perché su quel lavoro che fanno i mediatori ovviamente va riconosciuta una provvigione che più volte la Cassazione ha ribadito essere dovuta soltanto per quei mediatori che lo fanno di professione. Però spesso succede che appunto non si fanno le verifiche preliminari, quindi magari non si ha la certezza che quel bene possa essere trasferito perché magari c'è un'ipoteca, perché magari non è stata fatta una successione, perché c'è un problema nella provenienza, e quindi anche il venditore, cioè colui che vuole operare questa scelta di mettere in vendita il bene, deve essere consapevole che quel bene che ha e che vuole mettere a disposizione sia in regola sia dal punto di vista urbanistico, quindi deve fare queste verifiche, così come l'acquirente deve l'acquirente infatti deve essere attento, perché e capita, e anche nella nostra prassi quotidiana capita insomma di aver dovuto tutelare persone che invece hanno, questo lo do come consiglio perché è l'esperienza diretta professionale che mi impone di suggerire queste accortezze sia a chi vende che a chi acquista, perché poi nel momento successivo, una volta che si è perfezionata la proposta e quindi magari si va la proposta che deve avere una forma, la forma scritta, perché parliamo di una compravendita immobiliare che magari poi si perfeziona in un contratto preliminare, lì cominciano a sorgere degli obblighi giuridici, e quindi da quel punto di vista, se le cose non sono state fatte bene a monte, poi ci si trova incastrati in una vicenda che può portare spesso nelle aule di tribunale. Tornando un attimino indietro, no? Per fidarsi dei mediatori immobiliari, cosa bisogna fare? Cioè, qui è sempre una catena, no? Come faccio io a sapere se un mediatore è realmente valido, se anche lui non mi truffa? Cioè, a chi mi devo rivolgere prima? Allora, di fare questo passo. Innanzitutto chiedere al mediatore. Perché sto vendendo una casa. Esatto, no, perché il mediatore è un. Stiamo parlando di privati, eh? Esatto. No, ma il mediatore è un soggetto abilitato. Sì, ma come faccio a sapere che è abilitato? Perché esistono dentisti che non sono dentisti, ad esempio. Vabbè, no? Questo, come tutte le attività, la mediazione immobiliare non è una professione, come dicevi tu, per quanto riguarda l'avvocato. Però esiste un albo, perché i mediatori debbono superare un esame attraverso la Camera di Commercio, e quindi chiedere al mediatore l'iscrizione alla Camera di Commercio, perché poi lo stesso mediatore rischia la provvigione qualora invece si venisse a scoprire che lo stesso non è iscritto nell'apposito albo, quindi non è dovuto nulla nel caso in cui io avessi provveduto ad incaricare un soggetto che non ha quei requisiti che la legge richiede, quindi anche il mediatore deve essere attento da questo punto di vista, però perché di solito al mediatore viene riconosciuta una provvigione sia da parte di chi vende che da parte di chi acquista. Certo. Questo nella regola generale. Dopodiché esistono poi tutti gli altri passi, no? Cioè questa, come dicevamo, la proposta che di solito viene fatta in forma scritta e quando ci si affida a un mediatore viene fatta attraverso solitamente una proposta scritta con un deposito cosiddetto infruttifero, cioè viene lasciata una somma per far capire la volontà da parte dell'acquirente e del proponente di voler acquistare quel bene. Poi c'è il passo che solitamente avviene nella prassi, che è quella di sottoscrivere un preliminare, quindi dalla fase delle trattative della proposta si passa proprio a quella di cominciare a definire da un punto di vista giuridico quelli che sono gli obblighi che le parti intendono reciprocamente assumersi. Un contratto preliminare. Esatto. E che cos'è un contratto preliminare? È un contratto, il contratto preliminare è il contratto mediante il quale due o più parti si impegnano alla stipula di un successivo contratto chiamato definitivo, il cui regolamento di interessi però è già predisposto nel preliminare stesso. Che cosa significa? Significa che il contratto preliminare è quel contratto appunto che subordina la stipula di un successivo contratto chiamato definitivo, ma il cui regolamento di interessi è già disciplinato a monte, cioè gli elementi fondamentali del contratto definitivo sono già contenuti nel contratto preliminare, quindi il prezzo, il tempo della vendita, quindi gli elementi fondamentali, l'individuazione del bene oggetto del successivo, del successivo contratto definitivo. Cioè, che cosa significa? Io devo individuare tutti gli elementi che poi saranno trasposti nel cosiddetto contratto definitivo, quindi l'individuazione precisa dell'immobile, se parliamo di una compravendita immobiliare, delle persone, venditore e compratore, o se c'è la possibilità di far O l'acquisto a favore di un terzo, quindi devono essere indicati esplicitamente tutti gli elementi che costituiscono, su cui si è già l'accordo, e questo distingue poi gli effetti giuridici, perché il contratto preliminare è un contratto cosiddetto ad effetti obbligatori, cioè che cosa obbliga le parti a stipulare il definitivo. Quindi posso ricorrere al giudice qualora il venditore o l'acquirente decida, il promittente venditore o il promissario acquirente decidano poi di non stipulare successivamente, allora si può ricorrere al giudice per far trasferire coattivamente quel bene, quindi dare, ai sensi dell'articolo 2932, esecuzione specifica al contratto. Il preliminare, va detto, però non trasferisce la proprietà, è soltanto un contratto cosiddetto ad effetti obbligatori, mentre la compravendita, quella che viene fatta successivamente con il definitivo, è un contratto ad effetti reali, quindi è in grado di trasferire la proprietà. Però anche se è un contratto preliminare, io posso sempre porre delle condizioni, no? Assolutamente. Per esempio, innanzitutto nel contratto preliminare bisogna, di solito viene data quella, prima di parlare della condizione, di solito viene dato anche un segnale importante dell'obbligo, no? Quindi viene data o un acconto o una caparra. La distinzione tra acconto e caparra è significativa rispetto poi anche agli effetti che si possono scaturire in caso di inadempimento. L'acconto è semplicemente, come dice la parola stessa, una somma che va a scalare sul prezzo finale, mentre la caparra, che si distingue in confirmatorio e penitenziale, ma nel 90% dei casi nell'ambito del contratto preliminare per la compravendita immobiliare parliamo di caparra confirmatoria, significa che le parti, ai sensi dell'articolo 1385 del Codice Civile, vogliono garantirsi rispetto a un potenziale inadempimento. Cioè, se io do 20 a te per come caparra confirmatoria, significa che se io sono inadempiente, tu, e sei il promittente venditore, puoi trattenerti i 20 che ti ho dato. Nel caso contrario, cioè fossi tu ad essere, quindi promittente venditore, ad essere inadempiente, tu mi devi restituire il doppio della caparra, quindi limitare, ecco, il risarcimento già a quella formula. Quindi posso, io perdo se ti do i 20, in caso io sia il promissario acquirente. In caso in cui invece l'inadempimento dipenda da chi ha ricevuto la caparra, quest'ultimo è tenuto a dare il doppio della caparra, quindi questo limita il risarcimento del danno. Quindi abbiamo già stabilito a priori con questa formula, con la caparra confirmatoria, come vorremmo regolare il nostro risarcimento in caso di inadempimento. È sempre fatto salvo il risarcimento ulteriore, ma dovrà essere dimostrato. Su questo esiste tanta parte della giurisprudenza, anche a sezioni unite, da parte della Cassazione, che ha stabilito quali debbono essere i criteri per poter risarcire, quindi anche sulla distinzione delle varie forme di caparra. Però dicevamo delle condizioni, perché nel preliminare giustamente possono essere messi i termini. Innanzitutto il termine è un altro elemento eventuale del contratto, nel quale stabilire per esempio la data entro la quale un termine, per esempio perentorio, per stabilire la data del definitivo, cioè dobbiamo andare alla stipula del definitivo entro il... Quindi quello è un termine che le parti possono indicare come perentorio, oppure una condizione. Voglio comprare la casa, però devo ottenere un mutuo dalla banca, quindi condizionare sospensivamente, risolutivamente, scusate, il contratto all'ottenimento da parte dell'istituto mutuario, dell'istituto mutuante, del mutuo, per poter iscrivere ipoteche e quindi procedere e quindi consentire alla banca di fare tutte le verifiche quindi questo per garanzia anche del promissario acquirente. C'è sempre comunque poi il passaggio notarile, giusto? No? Qual è il... ruolo in questo caso? Allora, ovviamente il notaio ha una funzione di pubblico ufficiale quando stipula il cosiddetto definitivo, no? Il contratto di compravendita solitamente viene stipulato dal notaio, perché con la forma dell'atto pubblico. In verità il Codice Civile all'articolo 1350 non prescrive la forma dell'atto pubblico, prescrive la forma scritta con sottoscrizione purché ci sia la sottoscrizione poi autenticata, quindi si potrebbe ricorrere al notaio soltanto per la sottoscrizione delle firme, mentre nella prassi quotidiana è il notaio che garantisce però la certezza dei traffici giuridici a dover a stipulare nel 90% dei casi l'atto di compravendita. Questo anche per una maggiore sicurezza da parte sia di chi compra che di chi vende, perché esiste questa questa figura che il nostro ordinamento prevede, appunto, che è quella di garantire anche da un punto di vista dei traffici immobiliari la sicurezza, perché il notaio, come professionista abilitato, iscritto in un apposito albo ovviamente, che è quello del notariato, è regolatore, è una funzione pubblica, a differenza invece del mediatore, che è un soggetto privato e deve fare le verifiche indispensabili per poter procedere poi all'alienazione, quindi al trasferimento formale. Un pubblico ufficiale. È un pubblico ufficiale. Ecco, aggiungo che con l'ultima modifica, con la legge annuale sulla concorrenza e sul mercato dell'anno scorso, ne abbiamo fatto anche cenno in questa trasmissione, con la legge 124 del 2017, è possibile in via facoltativa consentire al notaio di trattenere come deposito, in fruttifero ovviamente, quella somma che costituisce il prezzo di vendita, quindi il promissario acquirente affida nelle mani può affidare nelle mani del notaio questa somma, fin tanto che non c'è l'aperfezionamento presso l'acconto. Parliamo no, della... no, parliamo quando facciamo l'atto definitivo, definitivo. Proprio di compravendita, cioè, posso affidare il deposito del prezzo fin tanto che quest'ultimo non ha eseguito tutte le formalità necessarie al trasferimento, e parlo soprattutto di quello che è l'effetto della trascrizione della compravendita nei pubblici registri immobiliari che hanno... E quindi fino a che non avviene la trascrizione della compravendita nei pubblici registri immobiliari, il prezzo non viene trasferito al venditore, e quindi la funzione di garanzia che l'ordinamento ha voluto attribuire ancora in forma maggiore al notaio, proprio per consentire la certezza che non ci siano per esempio sorprese tra la data della stipula e la successiva trascrizione, perché potrebbe accadere che tra quando firmo l'atto e la trascrizione della compravendita presso i pubblici registri immobiliari si possa inserire un creditore, quindi fare un pignoramento, oppure essere stata iscritta a un'ipoteca magari giudiziale a seguito di decreto ingiuntivo, quindi una serie di cose che servono a tutelare comunque l'acquirente, e di conseguenza la legge, con questa nuova norma, con quella norma contenuta nella la legge sulla concorrenza del 2017, ha voluto introdurre come facoltativa nel nostro ordinamento, mentre prima era obbligatoria con la legge 147 per l'immobile, per quanto riguarda gli immobili in costruzione, però in questo caso c'è quest'altra possibilità proprio per tutelare chi acquista il bene. Bene, io direi che è stata abbastanza chiara questa puntata, anche se siamo ritornati poi alla fine dove eravamo partiti, no? All'asta, perché se viene pignorata. L'ultima domanda, Marco, poi chiudiamo perché siamo in ritardo. Ma una banca, invece di pignorare l'immobile, no? Giusto, e poi magari mandarlo, come abbiamo detto prima, già ne abbiamo parlato, all'asta, magari venderlo a meno, non può continuare a contrattare con lo stesso cliente se in quel periodo ha un periodo di purtroppo è successo, allora, no? Chi è rimasto senza lavoro, chi ha avuto problemi finanziari proprio concreti. Cioè, non può non c'è questa questo passaggio, o anche lì riguarda la politica dell'istituto? Beh, sicuramente riguarda la politica dell'istituto, esiste la possibilità di ma questo dipende anche sempre dallo stato di insolvenza del debitore, cioè capire se effettivamente c'è la possibilità di allungare per esempio la durata del mutuo per consentire una situazione di difficoltà del debitore. Esiste sicuramente la possibilità di chiedere la sospensione in caso di... È previsto per legge o una politica è prevista per legge, però ci devono essere determinate condizioni certo. In questo caso viene aumentata la durata del contratto. Ho capito. Rispetto alla tua domanda, però, cioè, se una volta che avviene la procedura esecutiva, teoricamente le trattative possono anche intervenire in quella fase, perché fino a che non c'è la vendita sicuramente, però chiaramente è più difficile, perché se ci sono altri creditori potrebbe esserci la violazione della cosiddetta par condicio creditorum. Ho quindi capito. Su questo bisogna fare attenzione, o quantomeno bisogna raggiungere un accordo con tutti i creditori per evitare che l'immobile arrivi all'asta e si intervenga prima, però questa è una fase negoziale che diverge da caso a caso. Ho capito, perfetto, io ti ringrazio. Allora, per quanto riguarda Agorà, noi torniamo in onda venerdì prossimo con un altro argomento, in settimana poi lo espliciteremo, ma sicuramente parleremo di mobilità appunto, torneremo a parlare di mobilità, perché eravamo un attimino con le virgolette aperte o le parentesi aperte per quanto riguarda proprio le auto di nuova generazione, esatto, le cosiddette ibride o elettriche, che il dir si voglia. Io ti ringrazio Marco, ti auguro buon weekend e naturalmente ti rimando a venerdì prossimo. Grazie, buon weekend a tutti.